Il concerto performance al Teatro dell'Elfo. Alcune foto ritraggono il cantante piegato sulle ginocchia in una scena quasi lunare, con un palco coperto di sabbia e tagliato da fasci di luce. Sotto la sabbia erano state sotterrate alcune parti di bambole, braccia e gambe, che Stratos dissotterrava e sotterrava nuovamente durante la sua performance. Daniela Ronconi ricorda l'esecuzione delle criptomelodie infantili assieme ad altri brani tratti dai suoi lavori solisti. La registrazione audio della performance è stata pubblicata postuma con il titolo Concerto al Teatro dell'Elfo. L'occasione è di fondamentale importanza per almeno due motivi. Dimostra come Stratos ormai concepisca in modo totale l'idea di concerto solista, ritenendola evidentemente una vera e propria performance e muovendosi in scena analogamente a quanto facevano altri performer di livello internazionale. In secondo luogo, Stratos si presenta in concerto con un repertorio che non è solo una ripresa del lavoro in studio, ma in cui vi sono vari elementi di novità rispetto alle incisioni. Ciò rappresenta una conferma dell'impegno che Stratos stava applicando alla sua ricerca sulle forme di canto popolare e più in generale sulle tecniche estese di canto. Tra questi brani vi era Otsitsiras o Mitsiras, uno scioglilingua greco che richiama il canto della cicala, eseguito secondo tradizione ad altissima velocità, pronunciando una trentina di parole, la parola cicala, Tsitsiras, e il suo doppio, Mitsiras, in 3 secondi e mezzo. Stratos sceglie questo scioglilingua fra molti altri che gli erano stati proposti dalla filologa e archeologa Lidia Istikopoulou, sorella della scenografa Thalia, compagna di studi amica di Stratos e della moglie Daniela. Lo scioglilingua aveva in origine funzioni legate alla sfera religiosa o mistica in quanto strumento per accedere alla divinità, attraverso la sollecitazione del nervo simpatico stimolato da un simile tour de force. Dopo ore di esecuzione, il monaco vede anche un mezzo per accedere al soprannaturale, una droga povera, come la chiama lo stesso Stratos, che recupera il brano facendone un pezzo da inserire nella sua scaletta dal vivo. L'incisione per la cramp è di estremo interesse, prima di tutto perché lo scioglilingua è una sfida nei confronti dell'abilità del performer, costretto a spingere al limite le proprie capacità di coordinazione fonetica. In secondo luogo, lo scioglilingua, basato sull'onomatopea, gioca con quel valore concreto dell'intonazione che ci indirizza nuovamente verso suggestioni artodiane, portando qui più che mai il lavoro vocale a farsi materializzazione della poesia. Stratos mostra di non essere troppo legato al testo originale, né tantomeno ai limiti di un ipotetico recupero folcloristico dello scioglilingua. Le ripetizioni si interrompono bruscamente per lasciare spazio a un altro scioglilingua, sempre greco, molto usato dai bambini. Mia papia, pia papia, una papera. Quale papera? Non si conosce cosa spinse Stratos a inserire nel brano questo secondo scioglilingua, che oltretutto non ha nulla a che fare con quello fornitogli dalla Istikopoulou. Se però lo scioglilingua infantile greco non intrattiene alcuna relazione testuale con la storia di Otsitsiras o Mitsiras, non si può dire altrettanto della coerenza che dimostra nei confronti dell'idea performativa alla base del pezzo. Anche il secondo scioglilingua viene eseguito in modo estremamente veloce, articolandosi con una cellula melodica, interrompendo il flusso della prima parte del brano e rappresentando un inaspettato divertissement prima del ritornare alla ripresa dello scioglilingua originale del pezzo. In altre parole, Stratos, si tratta forse solo della scoperta di una curiosa pratica le cui origini affondano nella storia dell'antica Grecia? Magari una scoperta archeologica anche divertente in funzione della possibilità di raggiungere uno stato alterato di coscienza usando solo la voce? Il rigore e la coscienza connaturati e tutta l'opera artistica di Strato spingono però ad avanzare qualche dubbio in proposito. Omitsiras, ascoltare questo brano, significa farsi trascinare in un vortice in cui linguaggio e voce assumono una forma a tratti inquietante, svelando la loro possibilità, una loro sottovalutata funzione, farsi linguaggio efficace e voce materiale, plastica, visibile. Adesso ascoltiamo questo Omitsiras, Omitsiras. Sempre qui da Intersezioni, 333-180-9494 per SMS se volete dire qualcosa, mandarci qualche messaggio, e dopo Omitsiras, Omitsiras, la pubblicità, e poi rientreremo in studio con Andrea Laino e il suo Demetrio Stratos e il Teatro della Voce. Questo prossimo è da una collana che si chiama Collana Futura, uscita recentemente, utilizza 21 parole in 3 secondi e mezzo e si costituisce a ripetere, si ripete sempre. Forse era un frammento usato da sacerdoti nell'antichità, nelle isole greche. È una droga povera praticamente, perché agisce sul nervo simpatico e succedono delle cose strane se uno la ripete per mezz'ora. Qui chiaramente non è possibile, si può fare 5 minuti, e si chiama Omitsiras, Omitsiras. Omitsiras vuol dire la cicala, e racconta questa storia in 21 parole durante 3 secondi e mezzo, una storia di una cicala e le sue avventure. Siamo ritornati in diretta con Andrea Laino. Stiamo Intersezioni, Pier Antonio, anche con in vostra compagnia. Stiamo presentando, leggendo e facendovi ascoltare, presentando il libro di Andrea, appunto, del Metro Stratos, il teatro della voce, dedicato al lavoro, a tutta la ricerca sulla voce sperimentale, all'esplorazione, all'indagine fatta da Stratos durante il suo percorso, dicevo, dai ribelli fino ai lavori e a Chegiani per arrivare, diceva Andrea prima, perché ci siamo dimenticati di dirlo, al lavoro con la interpretazione di Artaud da parte di Stratos. Sì, di pur finir, per farla finita col giudizio di Dio, in altre parole, un'opera radiofonica che Artaud preparò siamo intorno alla fine degli anni 40 e fu alla fine censurata, un'opera che è un po' la summa di tutto il lavoro vocale che fece Artaud. Stratos lo interpretò una dei frammenti da questa trasmissione radiofonica proprio alla fine del suo percorso artistico intorno al 79. Questo era importante anche per dare una chiave agli ascoltatori riguardo a questo cerchio che si chiude in un certo senso alla fine del percorso artistico di Stratos, che è stata un po' una suggestione che mi ha ispirato a ripercorrere questo parallelo lungo il libro per raccontare Stratos in un modo nuovo. Il primo disco da solo di Stratos, che questa sera non abbiamo ascoltato e non ascolteremo, è Metrodora del 76. Il secondo è Cantare alla voce del 1978. E da vivi adesso leggiamo una parte del libro di Andrea che riguarda proprio Cantare la voce, analisi di Redi Cantare, presentazione, analisi, introduzione a Cantare la voce. La questione del rapporto, le righe che precedono direttamente l'introduzione a Cantare la voce. La questione del rapporto fra Stratos col canto difonico risulta invece utile affrontare la faccenda di come l'attenzione di Stratos si fosse diretta con sempre maggiore convinzione verso l'esplorazione delle forme di canto dei diversi popoli del mondo, svelando così una sensibilità per le tecniche estese che lo misero in comunicazione con il lavoro dei performer vocali a lui contemporanei e più volte qui rammentati. Allo yodel, l'onomatopea, il rumorismo fonetico ampiamente presenti già in Metrodora, si aggiungono quindi gli studi sul canto coreano pansori e su quello difonico, l'overtone singing, che lo spingono a esplorare questa tecnica anche in funzione dell'emissione di rumori estranei alla tradizione asiatica. Cantare la voce, tuttavia, non può essere ridotto a un prodotto degli esperimenti vocali di Stratos, una sorta di risultato della sua attività laboratoriale. Come ci siamo impegnati a sottolineare per il precedente album solista Metrodora, Stratos porta avanti, e forse in questo disco alle sue massime punte di precisione e coerenza, il proprio lavoro sul linguaggio vocale e sul rinnovamento degli strumenti del performer. Ne risulta un album storico, a volte anche mitizzato, che però dimostra con estrema lucidità come le sue ricerche gli avessero permesso di dar vita a una voce libera di cantarsi, in cui il linguaggio viene trasceso in una sorta di lingua nuova, universale, fatta di fonemi e di suoni, dove le tecniche di canto tradizionale di alcuni popoli vengono rielaborate e fatte proprie, assimilate nel personale vocabolario espressivo. La prima traccia del disco, Investigazioni, Diplofonie e Triplofonie, si apre proprio sullo sfruttamento delle tecniche di canto difonico, detto anche armonico, considerando le possibilità espressive cui tale forme di canto danno accesso, senza scegliere perciò di confrontarsi con esse secondo una prospettiva storica o filologica. Il profondo interesse per la vocalità sperimentale permise a Stratos di dare vita a un brano a tema, trovando ulteriori forme espressive che sfruttassero tali tecniche, giungendo a considerare la possibilità di un triplicamento vocale o triplofonia, estendendo così a sua volta anche i limiti di tale forma di canto tradizionale. La tecnica di base consiste nell'utilizzare la cavità orale come cassa di risonanza, che a seconda dell'apertura e posizione delle labbra e della lingua amplifica determinati armonici appartenenti alla formante della nota emessa. È possibile isolare ben 7 momenti distinti dell'elaborazione che Stratos compie rispetto alle tradizionali forme di canto difonico. Mm-hmm. Cantare la voce, investigazione di plofonie e triplofonie, l'inizio del disco, del secondo disco solista di Demetrio Stratos, con il quale ci salutiamo. Ringrazio Andrea Laino per tutto il lavoro che ha fatto, veramente prezioso, utile, documentato, approfondito. Se ne sentiva il bisogno che Stratos venisse, appunto, l'immenso lascito di Stratos venisse appunto studiato nei vari aspetti e in un percorso anche apparentemente disomogeneo, ma in realtà molto unitario nelle idee, nelle intenzioni e nelle realizzazioni poi a cui è arrivato Stratos. Io ringrazio Pier Antonio per questa magnifica occasione che ha offerto a me e al mio lavoro, e ringrazio voi ascoltatori. Concludiamo con la conclusione proprio di Cantare la voce, Le sirene, che secondo Daniel Charles rappresenta il punto più alto di tutta l'attività di ricerca. Stratos ci invita chiaramente a godere l'ascolto della terribile sirena cui gradualmente ci avviciniamo tra gli scogli, su cui si rompono onde di vocali e consonanti, sfumate ormai in un precisato senso, ma capaci di ammaliare più di ogni altra parola fino alla desiderata morte. I'm Lam Fu Yu Nesel Un Fu Ai Li Le Lam Fu Yu Nesel Un Fu Ai Li Un Lam Fu Yu Nesel Un Fu Ai Li Lam Fu Yu Nesel Un Fu Ai Li Come in, more clean. Avete ascoltato questa, spero che vi sia piaciuta, trasmissione di presentazione di questo, del libro di Andrea Laino su Demetrio Stasio, uscito 2 anni fa, ma che comunque vi consiglio a tutti quelli che hanno visto, sentito. Mi ero dimenticato di dire che, parlando di Stratos e del lavoro di Stratos con Cage su Cage, che ho avuto la fortuna di vedere Stratos cantare, credo proprio ai Mesostics nel 78 a Genova, in una serata molto turbolenta di contestazioni e di scontri verbali quasi fisici tra sostenitori e denigratori, ma in realtà occasionali spettatori presenti al concerto che non apprezzavano i vocalismi arditi di Stratos. Abbiamo poi sentito l'inizio era stato La mela di Odessa e poi Cometa rossa, sempre da Ariazione. Trasmetterò fino alle 22:30, questa si presenta come, si configura come l'unica trasmissione di questo ciclo estivo. Forse c'è qualche possibilità anche che sia l'ultima trasmissione, una conclusione in bellezza con Demetrio Stratos, potrebbe essere il clou finale, non so se di una onorevole o disonorevole carriera radiofonica, però insomma dipende anche un po' dalla partecipazione vostra, cari ascoltatori, e non soltanto, insomma, dai livelli comunicativi che tra me e voi, e non soltanto, insomma, non è che siete responsabili, non vi sentiate né così importanti né così trascurabili nell'economia delle mie considerazioni. E però insomma pesate in buona parte, avete un peso nel decidere comunque, non adesso è in altre occasioni, di andare avanti, perché gli SMS sono simpatici, ma sembrano quasi il dono che scende da qualche cielo, insomma una concessione che ogni tanto eravamo abituati, ma un rapporto un po' più vicino, diretto, continuo, ero abituato, ma non solo io, con gli ascoltatori, anche con le mail, ma come avrete capito, il brano più legato a atmosferi popolari britannici, diciamo, inglesi britannici, adesso non saprei collocarlo esattamente, ma con la vostra sterminata cultura di musica popolare inglese, britannica, irlandese, potrete sicuramente darmi dei punti, quindi 333-8094-94. Ancora intersezioni, l'ultima puntata di questo ciclo estivo. Long Song è un'etichetta milanese nata 3-4 anni fa con i primi dischi del chitarrista Simone Massaron, poi ha proseguito, ha fatto uscire una decina di lavori nel corso del tempo e degli anni. Due lavori di Nicola Cipani, l'ultimo di Piero Bittolo Bon, un altro di Giovanni, del contrabbassista Giovanni Meyer. Questo è un duo statunitense, Craig Green e David King. Craig Green, chitarrista che non conoscevo, dell'Idaho, con David King, che invece mi sembra di ricordarlo con David Moss, ma potrei anche sbagliarmi, comunque in gruppi rock strani, non di quelli consueti. Qui danno vita a duetti improvvisati elettrici e acustici. Dave King suona anche il piano, come nel brano che state sentendo sotto, Stand Right. Direi una musica esatta, alcune volte ipnotica, altre volte diretta, rock urticante, altre volte invece molto più sfumata e quasi appunto minimale nel tipo di conduzione, di strutture di conduzione, di dilatazione nel tempo. La cosa migliore adesso è da ascoltarci da questa Long Song, etichetta milanese. inediti live, concerti mai pubblicati, a cura di Pierantonio Pezzinga. Da Pierantonio Pezzinga per questa quarta puntata di Inediti Live, concerti mai pubblicati, questa nuova trasmissione notturna dall'una a un quarto in avanti, che presenta registrazioni di concerti mai usciti su disco, presi da festival, rassegne, dalle nostre nastroteche, dalle nostre registrazioni di performance e concerti di musiche non convenzionali, di ambito jazzistico, rock, anche etnico, contemporaneo, d'avanguardia, di ricerca, ma comunque che abbiano come elemento comune la non banalità e muoversi su terreni di diversità perlomeno rispetto alle musiche più schiettamente e direttamente commerciali. Questa notte, come già state sentendo in questo pezzo Manhattan Cocktail, l'orchestra di Sarra, questo è un brano registrato dal vivo nello stesso periodo del concerto che andiamo adesso a proporre, cioè nel 1979. No, questo è tra il 78 e il 79, registrato non dal vivo ma in studio, comunque a New York, nel periodo che prendiamo in considerazione. Sarra è diventato negli ultimi 20 anni, ha acquisito una notorietà, una fama, un apprezzamento che negli anni, nei 30-40 anni precedenti della sua lunga, affascinante e ricca vita non gli erano mai stati tributati. Viene questo pianista e compositore nero, viene dagli anni Sonny Blunt originariamente, che poi aveva assunto il nome di Sarra in onore alla mitologia egizia, e viene dall'inizio del Novecento, dalle orchestre, dall'aver suonato con le orchestre di Fletcher Henderson, come si dice, con Coleman Hawkins, e piano piano aveva messo insieme le proprie formazioni. E da Chicago, dove aveva fatto il suo apprendistato e aveva fatto parte della comunità nera, si era poi trasferito a Filadelfia e lì aveva messo insieme le sue prime piccole formazioni, che poi aveva trasformato in orchestra più grande, dandogli vari nomi, tra cui quello di Orchestra. Un'orchestra comunità in cui lui era la guida anche spirituale, non solo musicale. Diceva Sarra che tutto il mondo è una prigione e la sua orchestra, la sua comunità era la miglior prigione possibile. Lui, con un concetto di disciplina e di appunto guida che qualcuno che ha improntato la vita musicale di questa comunità, però facendo anche da esempio all'idea collettiva, insomma lo spirito collettivo comune che le comunità nere avrebbero riconosciuto e che si sarebbero dati dagli anni 60 in avanti. Si trasferì poi a New York e qui appunto incominciò, ci fu un interscambio tra la propria musica che riutilizzava e che riproponeva la grande tradizione jazz, ma che guardava sempre avanti, aveva già creato queste usava già le politritmie, questo uso molto ampio di percussioni esotiche, le sue tastiere, si era inventato una specie di Moog, che aveva preceduto uno strumento che aveva preceduto il Moog, con sonorità elettroniche, conosceva le orchestrazioni della musica del Novecento, classica e contemporanea, e appunto coniugava tutti questi elementi utilizzando anche una parte scenica spettacolare. Qualcuno, cioè Franco Bolelli, definiva la musica e l'esperienza di Sarra tra l'Africa e Broadway, per cui c'era una coreografia con le paillette che molti critici saccenti di allora giudicavano pacchiana e kitsch, e con questo stendevano un velo pietoso sulla musica di Sarra, che invece appunto soprattutto negli anni 60 divenne un punto di riferimento a New York, e ai suoi spettacoli incominciarono a partecipare, a seguire la sua musica e le sue ventate free di allora. Dicevo, c'era un interscambio tra la musica di Sarra e il free che nasceva in quegli anni. Non è stato mai un uomo della rivolta Sarra, però comunque ha fornito ideali, spunti e identità a una comunità nera che si stava in quel momento organizzando, a una musica, una cultura afroamericana di cui lui è stato parte integrante. Il concerto di questa sera è morto negli anni 90, mi sono anche dimenticato di dire, altra esperienza fondamentale, è stato il primo a fondare un'etichetta indipendente già negli anni 50, la Saturn, e con questa ha pubblicato quasi un diario, se non giornaliero, comunque molto fitto della sua attività musicale, registrando tantissimi concerti e tantissimi dischi, pare 190, addirittura 200 concerti siano stati registrati, e dando vita appunto a una delle prime esperienze di autogestione musicale, tanto per sottolineare il personaggio fuori dai ranghi e che non si faceva ingabbiare nel sistema e che rivendicava una propria autonomia espressiva nera completa. Dicevo, il concerto di questa sera viene dalle stagioni floride dei concerti in Italia, cioè dal 1979, quando questi gruppi passavano in Italia, suonavano, quando la musica afroamericana, che fosse free o musica creativa, era di casa dalle nostre parti, e il decentramento, c'erano le stagioni del decentramento, soprattutto per esempio in Toscana, in cui i concerti venivano fatti girare per le varie città, da Firenze a Pisa. Uno dei primi concerti che io sentii fu proprio nel 79 a Firenze, però di Steve Lacy e di altre formazioni, mentre Sarra io me lo persi a Firenze nel 79, ma questo invece è un concerto di Pisa dello stesso periodo con la Sarra Orchestra, che tra l'altro anche lì, anche qui ultimo nota, non era soltanto, non si basava solo sulle composizioni di Sarra e del repertorio della tradizione jazzistica, la grande tradizione jazzistica, ma vedeva schierati anche dei grandi musicisti, grandi solisti, John Gilmour, soprattutto sassofonisti, John Gilmour sax tenore, Marshall Allen ai vari sax, Pat Patrick, che non è presente in questo, e poi giuntesano alla voce, c'era anche una parte vocale danzante organizzata da John Tyson, e poi insomma molti musicisti importanti hanno sempre fatto parte, sono per più o meno anni delle sue orchestre, quindi c'era anche una densità esecutiva, musicale esecutiva, a un livello molto molto alto. Dicevo, questo concerto presenta composizioni di Sarra, altre appunto del repertorio del patrimonio jazzistico di Fletcher Anderson, nella cui orchestra aveva suonato. Non vi sono Spaces the Place, insomma alcuni, però vi è un Traveling in a Celestial Road. È un concerto registrato abbastanza bene, Pisa, 30 gennaio 1979, Teatro Giardino Scotto, probabilmente dal mixer. Vi do la formazione: Sarra, pianoforte, sintorgano, John Gilmour, sax tenore, Marshall Allen, sax, Danny Thompson, sax baritono, Michael Ray, tromba, Leroy Taylor, clarinetto basso, John Tyson, voce, e poi molte percussioni, Harry Wilson, vibrafono, James Jackson, basso, Steven, batteria, Richard Wilkinson, effetti speciali. No, in realtà non ci sono tantissimi percussionisti, come nello stesso periodo, qualche anno dopo, per esempio, vi erano questi strumenti percussivi egiziani o africani, veramente in quantità e in misura rilevante, per cui c'erano questi tappeti sonori, queste poliritmie, multiritmie, queste che poi avrebbero dato il là e comunque sarebbero stati ripresi e sviluppati dall'Art Ensemble of Chicago, da tutta l'AACM, da tutti i musicisti creativi chicagoani degli anni di metà anni 60, insomma. Quindi dopo questo vi auguro un buon ascolto di questo abbastanza lungo concerto della Sarra Orchestra 1979 a Pisa, e vi invito, se volete, a richiedere la messa in onda di concerti andando sul sito della radio a palinsesto lunedì, intersezione, che è l'altra trasmissione che curo sempre lunedì dalle 21 alle 22:30, e lì trovate una lista di concerti, potete consultarla, visionarla, e poi scrivete a pierantonio4@libero.it e segnalatemi i concerti che vorreste ascoltare da questo lungo file. Buonanotte a tutti quanti da Pierantonio Pezzinga. Orchestra di Sarra. Pronto, pronto. Buon rapido Giovanni sul parco, per favore. Sono Urbabbo. Buon rapido Giovanni sul parco. Grazie.

beautiful world. He's waiting for the sunrise, for the sunrise. The world, the world is waiting for the sunrise, for the sunrise, for the sunrise, for the sunrise. Thank you. Thank you. spring, it's spring, springtime again. It's spring, springtime again. Spring, it's spring, springtime again. Spring, it's spring. His next composition was also written and arranged by Fletcher Henderson. It's entitled Big John Special. Thank you.

A strange celestial road to endless ever. I'm traveling. A strange celestial road. A strange celestial road. To endless ever. I'm traveling. A strange celestial road. To endless ever. I'm traveling. A strange celestial road. To endless ever. Yes, I'm traveling. A strange celestial road. I'm traveling. A strange celestial road. To endless ever. A A strange celestial road to endless ever. I'm traveling. A strange celestial road. A strange celestial road. A strange celestial road. A strange celestial road. To endless ever. I'm traveling. A strange celestial road. A strange celestial road to endless ever. Traveling. A strange celestial road. A strange celestial road. A strange celestial road. A strange celestial road. To endless ever. Endless ever. Yes, I'm traveling. A strange celestial road. A strange celestial road to endless ever. Yes, I'm traveling. A strange celestial road. A strange celestial road to endless ever. Thank you.